Il Controfestival, questo non è il papete, è un'idea che nasce dal circolo del binario 69 e dal circolo ritmo lento, perché appunto non volevamo lasciare la montagnola alla strumentalizzazione di Salvini e delle destre, visto che soprattutto il binario da anni interviene nella zona, conosciamo tutti il bar e gli eventi che animano l'estate bolognese proprio alla montagnola. E quindi abbiamo pensato di fare questo festival, che fosse un festival soprattutto culturale e fosse un festival aperto agli interventi di tutte e tutti. Infatti appunto ci saranno dei momenti open mic, soprattutto il sabato, in cui interverranno le associazioni, ma appunto tutti gli attivisti e le attiviste che vorranno partecipare. I temi saranno quelli delle trasformazioni urbane, della repressione, ma anche il DDL Zan, perché uno degli organizzatori della festa è proprio Ostellari, che è stato uno dei parlamentari che hanno fermato il DDL Zan in Senato. Quindi questi saranno un po' gli temi di sabato, quando ci sarà un dibattito, e invece domenica sarà il momento più ludico, con una jam session e quindi appunto gli artisti, i musicisti avranno la possibilità di esprimersi. Voi contestate proprio anche le parole d'ordine scelte dalla Lega per questa sua kermesse, in particolare il tema della sicurezza, che spesso è stata agitata contro il degrado, eccetera. Sì, non ci stiamo alla retorica di Salvini di prendere alcune zone della città, soprattutto la montagnola, la zona universitaria, il pilastro, e farle diventare delle passerelle, delle vetrine elettorali, quando la Lega sicuramente non c'è mai stata in questi spazi. La montagnola è appunto un luogo che negli ultimi anni è stato animato dai circoli, dalle associazioni, in cui sicuramente la Lega non ha fatto niente, e quindi non ci stiamo che vengano dipinti in questo modo questi luoghi, quando non è così. Chi li vive quotidianamente non dice questo. Quindi come si svolgerà nel concreto poi il Controfestival? Il Controfestival sarà appunto di due giorni, sabato e domenica. Sabato con dei momenti più culturali, politici, con una tavola rotonda in cui interverranno le associazioni, ma anche delle letture di poesie, testi di canzoni, slam poetry, mentre domenica ci sarà la jam session aperta in cui suoneranno tutti i musicisti che ci hanno scritto, perché per organizzare questo festival abbiamo deciso di utilizzare un metodo molto orizzontale, quindi non siamo stati noi a chiamare gli artisti o gli interventi, ma abbiamo aperto un forum in cui tanti e tanti ci hanno scritto chiedendo di voler dare un contributo. Quindi è una risposta collettiva di Bologna rispetto alla festa della Lega.